Capitolo 8. Il 29 luglio 1835 Charlotte, che ormai aveva poco più di 19 anni, andò come insegnante da Miss Wooler. Emily l'accompagnò come educanda, ma ben presto si ammalò per la nostalgia al punto da non riuscire ad applicarsi a nulla. Perciò, dopo aver trascorso solo 3 mesi a Rowhead, ritornò alla canonica e alla sua amatissima brughiera. Miss Bronte spiega come segue i motivi che impedirono a Emily di rimanere a scuola, dove fu sostituita da Anne, l'ultima delle sorelle. «Mia sorella Emily, dice, era innamorata della brughiera. Ai suoi occhi, negli angoli più cupi della landa, sbocciavano i più vividi fiori. La sua mente sapeva trasformare in un Eden la più tetra valletta affossata sul livido fianco di una collina. Nella squallida solitudine trovava le più rare delizie e certamente non ultima, anzi la più amata, la libertà. La libertà era l'aria che Emily respirava, senza di essa moriva. Il cambiamento dalla sua casa a un convitto, dal suo ritmo di vita segregato, silenzioso, che non conosceva inibizioni, non aveva nulla di artificiale, a un altro scandito da azioni ripetute, governato da regole fisse, anche se ogni cosa si volgeva sotto i più gentili auspici, fu quanto non le riuscì di sopportare. Qui l'indole prevalse sulla forza di volontà. Ogni mattina, al risveglio, la visione della sua casa, della sua brughiera, l'avvolgeva, oscurando e rattristando la prospettiva della giornata che l'attendeva. Nessuno all'infuori di me sapeva quale fosse il suo male. Io non lo conoscevo che troppo bene. Nella lotta che sosteneva, la sua salute fu ben presto fiaccata. Il viso pallido, il personale assottigliato, le forze che venivano meno minacciavano un rapido declino. In fondo al cuore sentivo che sarebbe morta se non fosse ritornata a casa e, spinta da questa convinzione, ottenni che vi fosse richiamata. Era rimasta a Rowhead solamente 3 mesi e, prima che l'esperimento di lasciarla fosse nuovamente tentato, passarono alcuni anni. Il deperimento fisico di Emily, quando si allontanò da Haworth, fu constatato da tutti. Le sorelle decisero che se a una delle ragazze toccava assentarsi, lei doveva senz'altro essere lasciata a casa. Oltre all'infelice tentativo di Rowhead, vi erano stati 6 mesi trascorsi come insegnanti in una scuola di Halifax e più tardi il viaggio a Bruxelles in compagnia di Charlotte. Poi non se ne parlò mai più. In casa si dava da fare, prendendo su di sé quasi tutto il lavoro di cucina, stirava la biancheria e gli abiti e quando Tabby, invecchiando, si indebolì, fu lei che impastò il pane per tutta la famiglia. Chiunque fosse passato davanti alla porta della cucina che dava sull'esterno, la poteva vedere intenta a studiare il tedesco da un libro appoggiato a un qualsiasi sostegno mentre lavorava la pasta. E nessuno studio, per interessante che fosse, interferiva negativamente sulla perfezione del pane, che riusciva sempre buonissimo e leggero. In verità, in quella cucina i libri si vedevano abitualmente. In teoria le ragazze venivano formate culturalmente dal padre, mentre a insegnar loro le attività della vita pratica provvedeva la zia, che le addestrava a prender parte a tutte le attività domestiche, il che, per donne nella loro posizione, era un imprescindibile dovere, ma nel loro impiego del tempo accuratamente segnato trovavano molti ritagli da dedicare alla lettura, per esempio mentre sorvegliavano la cottura delle torte, riuscendo così a dedicarsi a 2 attività contemporaneamente, meglio ancora di quanto avesse fatto molti secoli addietro il famoso re Alfredo. Il periodo trascorso da Charlotte come insegnante nella scuola di Miss Wooler fu veramente felice fino al momento in cui anche in lei la salute si alterò. Voleva veramente bene alla sua maestra di un tempo e la rispettava e ora ne era diventata la collega e l'amica. Le educande non erano delle estranee per lei, alcune di loro essendo le sorelle minori delle sue antiche compagne di studio e di giochi. Le incombenze della giornata erano a volte tediose, sempre monotone, ma nell'attesa della sera pregustava ore di gioia quando lei e Miss Wooler sedevano insieme, a volte fino a notte inoltrata, e indulgevano in lunghe, quiete conversazioni, oppure rimanevano a lungo in silenzio, non meno piacevolmente, perché sapevano che quando un pensiero o una considerazione veniva in mente a una di loro, se provava il desiderio di comunicarla, aveva accanto un'intelligente compagna pronta a rispondere. Era riposante non essere costrette alla conversazione. Fu verso quest'epoca che nelle vicinanze di Leeds accadde un fatto che suscitò molto interesse. La giovane governante di una rispettabilissima famiglia era stata corteggiata e aveva sposato un dipendente della ditta commerciale di cui faceva parte il datore di lavoro della signorina. Un anno dopo il matrimonio, ed essendo nel frattempo nato un bambino, si scoprì che il sedicente marito aveva altrove una moglie legittima. Oggi si dice che quella prima moglie fosse demente e che egli avesse considerato ciò motivo sufficiente per sentirsi libero di contrarre un nuovo matrimonio. Sia come sia, la condizione della nuova moglie, che moglie non era, di quell'innocente madre di una creatura illegittima, eccitò la più profonda commiserazione e si parlò del caso in lungo e in largo nella zona, perciò naturalmente anche a Rowhead. Miss Wooler era ansiosa di procurare a Miss Bronte ogni possibile occasione di svago, ma spesso le era difficile indurla ad accettare gli inviti che le venivano fatti, o doveva insistere perché andasse a passare il fine settimana da E o da Mary, che vivevano nelle immediate vicinanze. Miss Bronte considerava contrario al proprio dovere concedersi una vacanza, per breve che fosse, e si negava quelle assenze necessarie a volte per interrompere un ritmo di vita troppo severo. Questa eccessiva severità verso se stessa era indizio di un difetto di sano equilibrio, sia fisico che mentale. Ciò risulta chiaro da un altro brano della lettera di Mary che ho già citata altrove. Dice: 3 anni più tardi, del periodo in cui si erano trovate a scuola insieme, seppi che era andata come insegnante da Miss Wooler. Mi recai a trovarla e le chiesi come mai poteva dare tanto di sé per così poco denaro, poiché non aveva bisogno di farlo per vivere. Ammise che dopo aver provveduto al vestiario suo e a quello di Anne non le rimaneva nulla del suo stipendio, anche se aveva sperato di riuscire a mettere qualcosa da parte. La situazione non era brillante, ma cos'altro poteva fare? Non seppi cosa risponderle. Sembrava incapace di provare un qualsiasi interesse o piacere all'infuori della coscienza del dovere compiuto. Quando le era possibile, sedeva da sola e faceva il punto. Un'altra volta mi raccontò che una sera era rimasta a sedere nello spogliatoio finché si era fatto buio fondo, a sua insaputa, poi accorgendosene a un tratto si era spaventata. Senza dubbio è questo ricordo che descrive quando parla di un terrore simile che invade Jane Eyre. Nel romanzo, scritto in prima persona, leggiamo: «Sedevo guardando il letto bianco e le pareti in ombra, rivolgendo ogni tanto lo sguardo affascinato verso lo specchio che luceva, e incominciai a ricordare quello che avevo udito narrare sui morti disturbati nella loro tomba. Tentai di reagire, scuotendo via i capelli dagli occhi, sollevai il capo e mi sforzai di guardare arditamente in fondo alla camera buia. In quello stesso momento un raggio di luce lunare filtrò da una fessura dell'imposta. No, il chiaro di luna è immobile, questo invece si muove. La mia mente, preparata com'era ad una visione di orrore, i nervi scossi dall'interiore agitazione, pensai che quell'improvviso raggio dardeggiante fosse l'araldo di una qualche visita dall'aldilà. Il cuore pulsava pesantemente, la fronte ardeva, percepii un suono che, come in sogno, mi parve essere un fruscio d'ali. Mi sembrava che accanto a me vi fosse qualcosa. Da quel momento, aggiunge Mary, la sua immaginazione si incupì. Fu pronta a spaventarsi, non poteva reagire, non sapeva impedirsi certi pensieri, non riusciva a dimenticare la tetraggine. Di notte non dormiva, di giorno non sapeva più concentrarsi. Naturalmente alle condizioni di salute qui sopra descritte, raggiunta gradualmente, non vanno riferite al 1836, ma fin da allora, da alcune sue espressioni, possiamo notare uno stato mentale che rammenta tristemente quello che riscontriamo in alcune lettere di Cowper. Non si può dimenticare che le sue poesie le fecero una profondissima impressione. Penso che le sue parole, i suoi versi, le venissero in mente più di frequente che quelli di qualsiasi altro poeta. 10 maggio 1836. Mi ha colpita il biglietto che mi hai mandato insieme con l'ombrello. Dimostrava un grado di interesse nei miei riguardi che non ho il diritto di aspettarmi da nessuna creatura al mondo. Non farò l'ipocrita, non risponderò alle tue affettuose, gentili, amichevole domande come tu desideri. Non ti illudere immaginando che vi sia alcunché di realmente buono in me. Mia cara, se fossi simile a te, il mio viso sarebbe rivolto a Sion, anche se preconcetti ed errori fossero in grado di gettare occasionalmente un velo di nebbia sulla gloriosa visione a me di fronte. Ma io non sono come te. Se tu conoscessi i miei pensieri, i sogni che mi assorbo nella sfrenata immaginazione che a tratti mi divora e fa sì che io trovi qualsivoglia compagnia miseramente insipida, avresti compassione di me. Non esito a dirlo, mi disprezzeresti. Conosco i tesori della Bibbia, li amo e li adoro, posso vedere il pozzo della vita in tutta la sua limpidezza e in tutto il suo fulgore, ma quando mi chino per bere le sue pure acque, esse si ritraggono alle mie labbra, come se io fossi Tantalo. Sei proprio gentile con i tuoi inviti troppo frequenti. Mi lasci perplessa, quasi non so come rifiutare, eppure accettare è ancora più imbarazzante. In ogni modo, questa settimana non posso venire perché siamo nel più fitto della melée delle ripetizioni. Stavo ascoltando le risposte della terribile quinta sezione quando mi è giunta la tua lettera. Miss Fuller ha detto che venerdì prossimo devo andare da Mary e inoltre ha dato la mia parola per la Pentecoste. Domenica mattina ci incontreremo in chiesa, tu ed io, se per te va bene, e mi fermerò a casa tua fino a lunedì. Ecco, una libera e facile proposta. Miss Fuller mi ha indotta a farla. Dice che la sua buona fama ci va di mezzo. Buona, gentile Miss Fuller. Per quanto monotone e faticose possono essere state le incombenze di Charlotte sotto il suo tetto, ha avuto sempre accanto un'affettuosa e attenta amica che vegliava su di lei, insistendo per farle prendere parte a ogni piccolo innocente svago che le si offriva. Durante le vacanze estive del 1836, la sua amica E venne da lei a Haworth, garantendole un breve periodo felice. A questo punto fa seguito una serie di lettere senza data, appartenenti all'ultimo periodo di quello stesso anno. E di nuovo pensiamo al mite e malinconico Cowper. Mia cara E. In questo momento sono tutta tremante di eccitazione dopo aver letta la tua lettera. Essa mi ha portato qualcosa che non avevo mai avuto prima, il traboccare senza riserve di un cuore caldo, gentile, generoso. Oh, ti ringrazio con energia per questa tua affettuosa gentilezza. Non mi tirerò più indietro nel rispondere alle tue domande. Vorrei davvero essere migliore di quanto sono. A volte prego con fervore di essere tale. La coscienza mi rimorde, il rimorso mi visita, rapide visioni sante di cose inesprimibili che mi erano estranee e lampeggiano. Forse tutto ciò svanirà e potrò trovarmi irrimediabilmente nella totale oscurità nel cuore della notte, ma imploro un misericordioso Redentore che, se questa è veramente l'alba del Vangelo, essa possa giungere a una perfetta luce diurna. Non mi fraintendere, non pensare che sono buona, semplicemente desidero di esserlo. Detesto la mia antica, spensierata leggerezza, quel desiderio di mettermi avanti. Oh, non sono migliore di quanto sia stata. Mi trovo in quello stato di orrida, cupa incertezza che in questo stesso istante, se solo potessi avvicinarmi alla prospettiva di raggiungere la riconciliazione con Dio, di ottenere la redenzione per i meriti del suo figliolo, non esiterei ad accettare di essere vecchia coi capelli ormai grigi. Non sono mai stata esattamente indifferente a tutte queste cose, ma le ho sempre considerate in modo impreciso, con una certa ripulsione, ed ora uno scoramento, se fosse possibile, ancor più oppressivo grava sul mio spirito, mentre le nubi si accumulano più scure che mai. Tu, mia carissima, mi hai rincuorata. Per un istante, un atomo di tempo, ho pensato di potermi chiamare tua sorella nello spirito, ma l'euforia è passata ed eccomi nuovamente desolata, come al solito, senza speranza. Questa notte stessa pregherò, come desideri che io faccia, possa l'Altissimo porgermi un orecchio compassionevole. Spero umilmente che lo farà, poiché tu rafforzerai la mia petizione inquinata unendovi la tua pura supplica. Tutto è agitazione e confusione intorno a me. Le ragazze mi fanno premura con i loro calcoli e le loro lezioni. Oh, se mi vuoi bene, vieni, vieni, vieni venerdì. Starò allerta in attesa di te. E se mi deluderai, piangerò desolatamente. Vorrei che tu potessi provare il fremito di delizia che ho provato quando, ritta alla finestra della sala da pranzo, vidi il postino che, mentre passava rapidamente al di là del muro, scagliava in giardino il tuo pacchetto. Il giorno di mercato a Huddersfield Era una grande ricorrenza a Rohid. Le ragazze, girando di corsa all'angolo della casa e sbirciando attraverso i tronchi degli alberi su per la china di una prateria ombreggiata, a volte potevano scorgere chi un padre, chi un fratello maggiore che passava in carrozza recandosi al mercato e magari scambiarsi un cenno con la mano, oppure vedere, come fece Charlotte Bronte dalla finestra proibita alle educande, un pacchetto bianco scagliato al di sopra del muro di cinta dalla rapida mossa di una mano robusta, mentre il corpo del viaggiatore rimaneva invisibile. Stanca per un giorno di duro lavoro, mi seggo per tracciare alcune righe per la mia cara E. Scusami se dirò solamente cose stolte, visto che ho la mente depressa e svanita. È una sera di temporale e il vento soffia, producendo un suono simile a un gemito, il che mi dà molta malinconia. In simili momenti è mia abitudine cercare riposo in una qualche idea calma e tranquilla, e oggi, per ottenerlo, ho evocato la tua immagine. Siedi lì, diritta, immobile, nel tuo vestito nero, con la tua sciarpa bianca, il viso marmoreo, proprio come se tu ci fossi realmente. Vorrei che tu mi potessi parlare. Se dovessimo essere separate, se ci dovesse toccare di vivere a una grande distanza l'una dall'altra e non vederci mai più, come rievocherei nella vecchiaia i giorni della mia gioventù e che malinconico piacere proverei, indugiando a rievocare la mia amica di allora. Ho alcune qualità che mi rendono infelicissima, alcune sensazioni di cui non ti posso mettere a parte, che poche, pochissime persone al mondo sono in grado di capire compiutamente. Non mi vanto di queste stranezze. Lotto, lotto per occultarle e per soffocarle fin dove posso, ma a volte irrompono, e allora chi assiste alla loro esplosione mi disprezza, e per giorni e giorni di seguito mi detesto. Ho appena ricevuto la tua lettera, e quanto l'accompagna, non sono in grado di dire che cosa induca te e le tue sorelle a sprecare la vostra gentile bontà per una come me. Sono loro obbligata, e spero vorrei dirglielo. E sono anche obbligata verso di te, ancor più per la tua lettera che per il tuo regalo. La prima mi ha dato piacere, il secondo quasi una pena. Il disturbo nervoso che, come è accertato, l'ha turbata durante il soggiorno presso Miss Wooler, sembra abbia incominciato a sconvolgerla in quel periodo, o perlomeno ne parla allora lei stessa, descrivendo una propensione all'irritabilità che fu certamente solo temporanea. Sei stata molto cara con me in questi ultimi tempi, risparmiandomi tutte quelle piccole prese in giro che a motivo della mia deplorevole e disgraziata permalosità un tempo mi facevano storcere la bocca come toccata da un ferro rovente. Certe cose a cui nessun altro dà importanza mi penetrano nella mente e rodono come un veleno. So che queste mie reazioni sono assurde, perciò tento di nasconderle, ma essendo represse, feriscono ancor più profondamente. Comparate questo stato di spirito con la mite rassegnazione con cui aveva sopportato di essere messa da parte come inutile nei giochi e aveva udito commentare la sua bruttezza dalle compagne solo 3 anni prima. La mia vita, scrive, dal nostro ultimo incontro è trascorsa in una ininterrotta monotonia, null'altro se non insegnare e insegnare dalla mattina alla sera. L'unica variante che mi sia concessa è data da una tua lettera o dall'incontro con un nuovo piacevole libro. La vita di Oberlin e la ritrattistica domestica di Leif Richmond sono gli ultimi di questi. Il secondo ha attratto e stranamente affascinato la mia attenzione. Chiedilo, prendilo in prestito o rubalo, senza por tempo in mezzo, e leggi Memorie di Wilberforce. Breve relazione di una vita corta e priva di eventi, non la dimenticherò mai. È bella, non per la lingua in cui è scritta, non per gli incidenti minuziosamente narrati, ma per la semplice descrizione di un giovane sinceramente cristiano e pieno di talento. Circa in quel tempo Miss Fuller trasferì la sua scuola dalla bella, aperta, ariosa posizione di Rowhead a Dewsbury Moor, a poche miglia di distanza. La nuova residenza era situata molto più in basso e l'aria vi era meno pura e tonificante per una creatura cresciuta in vetta alla collina nel selvaggio villaggio di Haworth. Charlotte fu molto provata dal cambiamento e lo lamentò non solamente nei propri riguardi, ma anche prendendo in considerazione l'interesse della sorellina Anne. Nel frattempo, Emily era andata a insegnare in una scuola di Halifax che accoglieva quasi 40 alunne. Non ho ricevuto che una lettera da quando è partita da casa, scrive Charlotte il 2 ottobre 1836. Mi dà uno spaventoso resoconto delle sue mansioni. Duro lavoro dalle 6 antimeridiane alle 11 di notte, con una sola mezz'ora di esercizio fisico a metà giornata. Una vera schiavitù, temo che non vi possa resistere. Quando le sorelle si trovarono riunite a casa per le vacanze natalizie, parlarono delle loro rispettive esperienze e delle prospettive di lavoro e di guadagno per il futuro. Capivano che dovevano sollevare il padre dalla necessità di mantenerle, anche solo parzialmente, se non tutte e tre, almeno una o due, e naturalmente ricadeva sulle maggiori l'impegno di trovare una fonte di guadagno. Sapevano di non avere nessuna probabilità di una qualche consistente eredità in avvenire. Mister Bronte riscuoteva un piccolo stipendio e per sopramercato era caritatevole e liberale. La zia godeva di un vitalizio di 50 sterline annue che alla di lei morte doveva passare in altre mani. Le nipoti non vi avevano alcun diritto e non contavano sui suoi eventuali risparmi. Cosa potevano fare? Charlotte ed Emily stavano tentando la carriera dell'insegnamento e, a quanto sembrava, senza grande successo. La prima, è vero, aveva la fortuna di avere un'amica sincera come datrice di lavoro ed inoltre era circondata da persone che la conoscevano e le volevano bene, ma percepiva uno stipendio troppo basso per riuscire a metterne via una parte e il suo livello culturale non le dava diritto a chiederne uno maggiore. E per di più, la vita sedentaria a cui era costretta danneggiava la sua salute fisica e mentale. Tuttavia, non voleva riconoscerlo neppure a se stessa. Ma per quanto riguardava Emily, quello spirito libero, selvaggio, indomabile, che non si sentiva a proprio agio se non sulle solitarie pendici coperte di erica che circondavano la casa, detestatrice degli estranei, condannata a vivere in mezzo a loro, a logorarsi al loro servizio. Charlotte, disposta a tollerare tutto ciò pazientemente per se stessa, non lo poteva accettare per sua sorella. E tuttavia, che fare? In passato aveva sperato di diventare un'artista e di poter così guadagnare di che vivere, ma gli occhi l'avevano tradita nella minuziosa e inutile fatica che si era imposta. Era abitudine delle ragazze, quando si trovavano riunite a casa, cucire fino alle 9 di sera, ora in cui Miss Brownell solitamente andava a dormire e le mansioni domestiche delle nipoti cessavano. Riponevano il lavoro e incominciavano a passeggiare su e giù per la stanza, dopo aver spento le candele, forse per economia, avanti e indietro, messe in luce un istante dalla brace del caminetto e subito riassorbite dall'ombra. Era il tempo della giornata in cui parlavano delle difficoltà passate, delle preoccupazioni presenti, facevano progetti per l'avvenire, ragionavano sui loro piani. Negli anni successivi fu l'ora e il modo in cui discussero gli intrecci dei loro romanzi. E più tardi ancora, quello fu il momento in cui l'ultima, sopravvissuta delle sorelle, girava e girava intorno alla stanza per antica abitudine, desolata, sola, pensando tristemente ai giorni che non erano più. Ma quel Natale del 1836 non era privo di speranze, fremente di ardite aspirazioni. Si erano allenate a scrivere storie fin da bambine nelle loro riviste. Tutte e tre inventavano alla perfezione e avevano anche tentato di scrivere in versi e nutrivano una moderata fiducia di averlo fatto con successo. Ma sapevano che il loro ottimismo poteva nascere da un'illusione, che il giudizio circa le reciproche produzioni correva il rischio di essere parziale e non poteva costituire una sicura base. Alla fine Charlotte decise di scrivere a Southey, al poeta. Credo, in base ad un accenno in una lettera che segnalerò più avanti, che abbia consultato anche Coleridge, ma non ho trovato nemmeno un rigo di questa corrispondenza. La lettera a Southey fu spedita il 29 dicembre e nella tensione, ben comprensibile, in una giovinetta che era arrivata al punto di scrivere a un poeta laureato per chiedergli un giudizio sulle proprie poesie, ella usò alcune espressioni enfatiche che probabilmente lo indussero a credere che si trattava di una ragazzina romantica, ignara delle realtà della vita. Questa lettera avventurosa fu, senza dubbio, la prima di parecchie altre di medesimo tono che passarono attraverso il piccolo ufficio postale di Haworth. Quel periodo di vacanze trascorse senza che una mattina dopo l'altra giungesse la risposta tanto attesa. Le sorelle dovettero tornare al lavoro. Triste necessità, specialmente per Emily che ne detestava le incombenze, senza sapere se la lettera di Charlotte era giunta a destinazione. Senza lasciarsi scoraggiare dall'insuccesso di Charlotte, Bronwell tentò anche lui la sorte e scrisse a Wordsworth una lettera degna di nota che nel 1850 fu consegnata dal poeta a Mr. Quillinan, quando il nome Bronte era ormai conosciuto e famoso. Non ho modo di accertare quale risposta ottenne da Mr. Wordsworth, ma si può pensare che egli considerasse quella missiva degna di nota, poiché la conservò e se ne ricordò quando il nome che si nascondeva sotto lo pseudonimo di Carter Bell fu rivelato al pubblico. Ecco il testo della lettera. Haworth, nei pressi di Bradford, Yorkshire, 19 gennaio 1837. Signore, la supplico vivamente di leggere e di formulare un giudizio su quanto le ho inviato, perché dal giorno della nascita, questo mio 19° anno di età, ho vissuto tra solitarie colline dove non ho potuto provare né cosa io sono né quello che sono capace di fare. Leggo per lo stesso motivo per cui mangio o bevo, perché è una vera brama istintiva. Ho scritto sotto la stessa spinta, indotto dagli impulsi e dai sentimenti. Ne ho potuto fare diversamente perché quello che si è presentato è venuto fuori e tanto basta. In quanto alla presunzione, non ha potuto ricevere alimento dall'adulazione, visto che fino a questo momento c'è al mondo solo una mezza dozzina di persone che sappia che io ho mai scritto un rigo. Ma ora si è prodotto un cambiamento, signore, e sono giunto a un'età in cui devo fare qualcosa per me stesso. Le facoltà che possiedo debbono essere indirizzate a una meta precisa e siccome io stesso non sono in grado di valutarle, devo chiedere ad altri quale sia il loro valore. Ma qui non vi è nessuno che me lo possa dire. Se non hanno valore, il tempo si sta facendo troppo prezioso perché io lo sprechi contando su di esse. La prego, mi perdoni, signore, se mi sono avventurato a presentarmi a uno i cui lavori ho amato sopra ogni altro della nostra letteratura e che è stato per me una divinità della mente, per deporre di fronte a lui uno dei miei scritti e chiedergli un giudizio sul contenuto. Vengo a colui il cui giudizio è senza appello, colui che ha svolto la teoria della poetica e l'ha praticata, e queste due cose le ha fatte in modo tale da pretendere un posto nella memoria dei mille anni venturi. Il mio scopo, signore, è di uscire allo scoperto nel vasto mondo e per questo non mi affido alla sola poesia. Essa potrà varare la nave, ma non sarà in grado di spingerla al largo. Una prosa sensata ed esatta, arditi e rigorosi sforzi lungo il cammino della vita mi darebbero un ulteriore diritto all'attenzione del mondo e poi, di nuovo, la poesia dovrebbe dar lustro e incoronare di gloria quel nome, ma nulla di tutto ciò può essere iniziato senza mezzi. E siccome non ne possiedo, debbo in ogni modo lottare per ottenerli. Sicuramente in questi giorni, in cui non c'è un poeta fra quanti scrivono che valga un soldo, il campo si deve aprire se uno che vale di più potrà farsi avanti. Quella che le invio è la scena che introduce un soggetto assai più lungo, nel quale mi sono sforzato di sviluppare forti passioni e deboli principi in lotta con una immaginazione esaltata e acuti sentimenti, finché a mano che la giovinezza avanza, le cattive azioni e i brevi godimenti finiscono nella desolazione mentale e nella rovina fisica. Inviarle il tutto equivarrebbe a uno scherzo di cattivo gusto fatto alla sua pazienza. Quello che ha sotto gli occhi non pretende di essere niente di più che la descrizione di un fanciullo immaginoso. Ma lo legga, signore. È come porgerebbe un lume a qualcuno immerso nella tenebra, lei che dà valore alla gentilezza del cuore, mi faccia avere una risposta, sia pure di una sola parola, dicendomi se devo continuare a scrivere o se non devo scrivere più. Voglio perdonarmi l'indebito calore perché i miei sentimenti in proposito non sono freddi e mi creda, signore, col più profondo rispetto, suo umilissimo servitore, Patrick Bronwell Bronte. La poesia clusa non mi sembra assolutamente all'altezza di alcune parti della lettera, ma siccome a tutti piace giudicare personalmente, copio le 6 strofe dell'introduzione, su per giù un terzo dell'insieme e certamente non il peggiore. Là dove egli regna in gloria splendente, al di sopra di questi notturni cieli stellati, in mezzo al suo paradiso di luce, ah, perché non posso esservi io? Spesso, essendo desto all'alba del Natale, supino e abbandonato nell'insonne crepuscolo, strani pensieri mi sono nati in mente di come egli sia morto per me. E spesso, giacendo nella mia camera, mi sono destato piangendo, destato dai sogni in cui lo contemplavo morente sull'albero maledetto. E spesso mia madre ha detto, mentre le abbandonavo il capo sul grembo, che temeva che io non fossi fatto per il tempo, ma per l'eternità. Perciò posso chiaramente leggere il mio diritto a dimorare nei cieli, e lasciate che io dica addio ai timori ed asciughi i miei occhi piangenti. Mi metterò a giacere su questa lastra di marmo e porrò il mondo da parte per vedere sul suo trono di ebano la luna che procede in gloria.